Europa 24. Cari amici, un saluto, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Oggi Bruxelles, di cui regolarmente parliamo per le direttive, le iniziative, insomma gli aspetti eminentemente burocratici, oggi invece apriamo su Bruxelles per una grande manifestazione. Stamattina, pensate, 250 persone, la metà dei manifestanti che si sono radunati davanti allo European Business Summit a Bruxelles, sono stati fermati dalla polizia belga, caricati su autobus delle forze dell'ordine e portati via. Questo riferisce l'agenzia di stampa belga. Tra i fermati anche diversi deputati o candidati, tra cui l'italiano Luca Casarini, candidato per la lista Tsipras, e secondo quanto afferma il sindacato belga di area cattolica CSC, anche il verde belga Anne Ersovici. Insomma, una situazione piuttosto movimentata, con una polizia presente in massa sul posto, con la squadra antisommossa e un'autopompa che è stata usata sugli attivisti e attivisti coinvolti nei tafferugli con i poliziotti in borghese. Staremo a vedere, vi aggiorneremo anche su questo. Intanto, mancano 10 giorni al voto delle elezioni europee, in Italia il 25 però si vota anche in Ucraina, una questione che riguarda direttamente, fortemente l'Europa. Sentiamo il servizio. Mancano meno di 2 settimane alle elezioni in Ucraina. Sul campo la situazione è appesa a un filo. Le foto delle vittime di Odessa hanno fatto il giro del mondo, lasciando sgomenti anche i più abituati. Oggi le forze di autodifesa filorusse del Donbass hanno lanciato un ultimatum che scade alle 21 all'esercito ucraino. Deve ritirarsi dall'autoproclamata Repubblica di Donetsk. Anche sul tavolo della diplomazia si continua a muovere le tessere, ma la soluzione non torna. Non è troppo tardi se la Russia vuole lavorare in modo costruttivo, dice il presidente della Commissione Barroso. È nell'interesse di tutti. L'Europa è già intervenuta con le sanzioni, ma se Mosca causerà problemi nelle elezioni, Bruxelles è pronta a imporre sanzioni economiche più dure. Una posizione che, secondo Fraser Cameron, direttore del centro euroasiatico, non impensierisce la Russia. Mosca ha sempre interferito, le sanzioni non la fermeranno e l'Europa sarà costretta a fare ciò che ha detto, ammonisce Cameron. È possibile che nelle regioni orientali qualche difficoltà ci possa essere, ammette il premier Yatsenyuk, ma riusciremo ad assicurare libere elezioni. Quanto al percorso europeo intrapreso da Kiev, Yatsenyuk lo conferma e invoca l'aiuto di tutte le istituzioni, rivendicando però tempi e modi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora cambiamo tema, verificheremo i risultati della garanzia giovani. A Radio 24 parla il commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor, che conferma i fondi europei per il piano a favore dei giovani sono già disponibili. Lo ha intervistato Sergio Nava. I fondi europei sono a disposizione. Si tratta di 567 milioni della Youth Employment Initiative. Non dobbiamo neanche dimenticare che risorse nazionali devono essere allocate. E quindi interesse dell'Italia aiutare i giovani a trovare un vero lavoro. I fondi a disposizione dovrebbero essere sufficienti per lanciare il programma. Questi sono soldi già disponibili. Verificheremo ovviamente i risultati. Abbiamo già esaminato i piani di implementazione. Annualmente verificheremo i progressi. C'è una cooperazione stretta tra i servizi della Commissione e il governo italiano, il quale si tiene in contatto con le regioni. Nel caso non fossimo soddisfatti, penso sarebbe totalmente però controproducente chiedere i soldi indietro a un paese che ha bisogno di maggiori risorse nel settore del lavoro. Dovremmo dunque capire cosa manca innanzitutto, perché, e insisto, non sarà solo la Commissione europea a condurre un assessment, ma anche le organizzazioni giovanili del Paese e nelle regioni. Il loro ruolo è importante. Infine, sulla qualità di queste esperienze formative, nell'accordo la parola qualità è stata enfatizzata. Ci deve essere per il giovane l'opportunità di un lavoro, di un tirocinio, di un corso di qualità. In questo entra in gioco non solo il sussidio economico, ma anche il modo personalizzato in cui il servizio di collocamento lavora con i giovani per trovare le migliori soluzioni. È anche importante coinvolgere i partner sociali per realizzare una mappa dell'impiego regionale, per capire come rafforzare la domanda grazie ai sussidi. Le aziende possono creare occasioni di tirocini, tirocini di qualità, e i servizi di collocamento possono selezionare i migliori. Bene, vi ricordo l'intervista integrale a Laszlo Andor andrà in onda nel programma Giovani Talenti sabato alle 13.30. E con questo è davvero tutto, l'appuntamento con l'Europa questa sera, Europa 24 notte, e naturalmente domani per il consueto appuntamento intorno alle 14. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.